e io prescrivo i mutandoni. Ecco qua, l'uomo allora deve lasciare libero il gioiello, insomma, ecco, perché per prendere aria. Ma cos'è che dicevi prima che è molto interessante? No, io non so se era microfoni spenti, adesso mi imbarazzo un po'. Porti gli spuntini durante le tue prestazioni o no? No, ti nascondi gel dentro le mutande, che cosa fai? Ma no, dentro le mutande. Vabbè, chiedo, perché non hanno delle tasche. Assolutamente magnifica, d'altra parte se non prendono te che hai la coscia lunga. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Voi siete cicale o formiche? Beh, gli italiani, lo sai che sono, Nicoletta, un popolo di santi, poeti e navigatori, ma anche risparmiatori, quindi no cicale, ma formiche. E negli ultimi anni ci sono stati momenti difficili in cui molte famiglie hanno dovuto utilizzare le scorte del risparmio per fronteggiare problemi molto importanti, come lo stato di disoccupazione in cui molti sono caduti. Ma proprio l'alta propensione al risparmio ha comunque sempre segnato il comportamento generale. Pur di risparmiare, gli italiani limitano i consumi. Il grande paradosso dei tempi moderni è che la crisi aumenta il bisogno di risparmio perché insiste sulle ansie del risparmiatore e introduce elementi nuovi di preoccupazione. Il desiderio di ricostruire le proprie scorte ormai quasi esaurite, il timore per l'incertezza sul futuro non solo personale ma anche del paese e soprattutto le incertezze sul reddito dopo la pensione. E oltretutto gli italiani non brillano però per soddisfazione per i propri risparmi. C'è una recente ricerca internazionale di InDirect con focus sui risparmi, è stata realizzata su 13 paesi in Europa, un campione molto vasto, 13.000 risparmiatori, e coloro che si dicono oggi soddisfatti del livello dei propri risparmi in Italia sono il 16%, e quindi è un dato inferiore rispetto a quello dell'anno scorso, che era del 25%. Guidano invece la classifica i lussemburghesi, gli olandesi e anche gli austriaci, con un 45%, 43% e 38% di soddisfatti. E allora, eppure, nonostante questa insoddisfazione, va ricordato che il nostro paese continua ad avere ancora uno degli stock di risparmio privato più alti al mondo, ma la domanda è: dove lo collocano gli italiani? Dove risparmiano? Che prodotti scelgono? Che strumenti? Materasso o polizze vita? Bot o azioni? Mattone o conto di deposito? Hanno gli italiani un'adeguata conoscenza dei fondi pensione? Insomma, tante domande che stamattina gireremo a Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Un commento a caldo su questo? No, è vero, è sicuramente vero che siamo formiche, ma è sicuramente vero che il risparmio è una delle virtù degli italiani. È anche vero che stiamo cambiando ormai da circa 10-15 anni a questa parte il modo di investire, perché è cambiato il mondo, è cambiata la complessità del mondo, e è evidente che gli italiani hanno imparato a passare da un investimento soprattutto in titoli di Stato a un investimento molto più diversificato, sia verso le azioni sia verso mercati che non sono quelli più vicini a noi. E questo passaggio sta avvenendo, è ancora in corso e anzi dovrà continuare in maniera molto forte nei prossimi anni. Hai visto che ha già citato Fabio Galli, Nicoletta, una delle tue recenti parole preferite, che è? Diversificazione. Eccola qua. Allora, e quindi vi invitiamo a chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24, raccontateci se anche voi diversificate. Certo. Ti piace così? Mi piace moltissimo. Fabio Galli ci ha scattato la fotografia sul risparmio degli italiani che possiamo datare 21 febbraio 2014, ma abbiamo invitato Fabio Galli perché stanno letteralmente fervendo i preparativi della quinta edizione del Salone del Risparmio, edizione che si svolgerà a Milano il 26, 27 e 28 marzo. Ci saremo anche noi, Nicoletta, lo ricordiamo, quindi tutti coloro che... Io sono emozionata perché è la prima volta. Mi fa piacere, perché vedrà che sono 3 giorni, come diciamo noi, spesi molto bene. C'è un'energia particolare, c'è una partecipazione che sta crescendo negli anni. Devo dire che anche il luogo in cui si tiene, che è l'Università Bocconi, ha una sede obiettivamente di grande attrazione, anche perché è vicino a casa mia, proprio qua. Infatti, brilla di luce riflessa. No, stiamo registrando dei tassi di iscrizione attraverso il sito incredibili. L'anno scorso sono transitate dal salone più di 12.000 persone, crediamo che quest'anno saranno molte di più. E credo che rifletta anche l'interesse che c'è per i temi dell'investimento e del risparmio, perché, come voi avete detto, è uno dei grandi asset, come si dice, uno dei grandi, delle grandi virtù di questo paese, ma si può fare sempre meglio. Certo. Tre buone ragioni per venire al Salone del Risparmio, per me ad esempio, che non sono venuta, io verrò ad accompagnare Deborah. Oltre al fatto che è vicino a casa di Nicoletta, le altre io ce l'ho vicino a casa, quindi potrei venire proprio a piedi. Allora, risparmiare è qualcosa che è un po' nella nostra cultura, ma investire invece richiede due grandi virtù. Una è la fiducia. Si può investire bene solo se si ha fiducia, un po' come il rapporto che si ha col medico. Bisogna sapere che da soli è molto difficile prendere decisioni di investimento, quindi nessuno di noi si cura da solo, almeno se siamo abbastanza... Se lo facciamo... Rischiamo, dobbiamo avere la nostra competenza per interloquire col medico, per capire come... ad avere un dialogo costruttivo, certo. Ma alla fine ci affidiamo al dottore. Così anche negli investimenti credo che gli italiani abbiano superato un po' quell'idea dello scommettitore fai da te, che punta un po' sul cavallo giusto, che si informa in qualche modo, dove la decisione sente il consiglio dell'amico. Esatto, dove la cosa è un po' facile, insomma si gioca un po'. Allora, il risparmio è in qualche modo, proprio perché è così prezioso, richiede un rapporto di fiducia con un professionista. E la seconda cosa è una disciplina. Cioè, così come nella nostra vita dobbiamo imparare ad avere la disciplina nel modo in cui mangiamo, in come facciamo esercizio fisico, cioè come costruiamo la nostra personalità, la nostra vita, la stessa cosa vale per l'investimento. Lo vedi che Fabio Galli ha proprio uno stile cuore e denari, e non è un caso che quest'anno il salone avrà proprio anche questo nuovo formato, chiamiamolo così, e ci hanno un pochino copiato, Nicoletta. Io dico assolutamente di sì. Ma noi seguiamo i buoni esempi. Mi è molto simpatico, Quest'idea, allora, tutti sanno nel mondo degli investimenti e della finanza, che è una parola oggi un po' vituperata, ma in realtà nel momento in cui il nostro reddito è anche nel lungo termine, nel lungo periodo, perché ormai viviamo a lungo, perché dobbiamo pensare alle generazioni, al passaggio, è legato molto a questa capacità di pianificare nel lungo termine, quindi di capire che i nostri comportamenti oggi hanno una conseguenza di lungo termine. E dove questo avviene? Ovviamente nel mondo del nostro benessere. Il nostro benessere è determinato anche dal fatto di non cedere a certi impulsi, a certe logiche di soddisfazione immediata. E questo è quello che, per cui venire al Salone del Risparmio e entrare in una capacità di visione di come si pensa a se stessi proiettati negli anni, quindi i due temi sono effettivamente per noi molto legati. Però diciamo che il sodalizio con questi temi avverrà anche in maniera concreta. Sì, siamo molto contenti che un'istituzione prestigiosa di ricerca che è riconosciuta a livello mondiale, Humanitas, parteciperà al salone, quindi... perché anche questo è un altro di quegli aspetti che coniugano il mondo degli investimenti alla nostra vita, cioè l'idea della ricerca, del mettere delle risorse che costruiscono qualcosa per il futuro. E che sono ovviamente come si costruisce con un certo rigore, quindi nel caso il rigore scientifico è quello che si cerca di riprodurre nel mondo degli investimenti. Ottimo, allora. Allora, oggi Cuore Denari come sempre apre le porte ai nostri ascoltatori, soprattutto anche alle nostre ascoltatrici. Se volete investire con noi, capire qualche cosa di più di dove mettere questi soldi nel breve, nel medio, nel lungo periodo, noi siamo qui, ma per investire bene bisogna usare anche la testa. Brava. E allora, proprio prendendo un po' spunto da quello di cui ci parlava il dottor Galli, insomma, la salute e gli investimenti e i risparmi vanno un po' a braccetto, noi vorremmo anche investire nel breve, nel medio, nel lungo e io dico lunghissimo tempo anche sul nostro cervello, che è un po' la nostra cabina di regia. Questi sono i due temi su cui vi invitiamo ad intervenire, perché come ci ha spiegato e ci ha confermato, perché a Cuore Denari già lo sapevamo, il dottor Galli sono due temi assolutamente intrecciati. 800 24 00 24. E allora utilizzate anche lo stesso numero per intervenire in trasmissione e vi vogliamo coinvolgere in questo modo. Proviamo ad usare una metafora. Immaginate che il vostro risparmio sia un po' un dolce. E allora come lo definireste? È un bignè o una torta? E se è una torta, come ci auguriamo naturalmente, in quante fette l'avete divisa? Quanto è grande la fettina del mattone che avete tagliato dunque per la casa? È quella del fondo pensione? Vi state costruendo una pensione di scorta? Oppure non siete ancora riusciti a ritagliare neanche una fettina sottile e vi siete mangiati il risparmio in un boccone? Se volete scriveteci anche al 349-238-6666 o su Facebook o su Twitter. E su Facebook, proprio ieri quando abbiamo lanciato il programma, Mariella ci ha scritto: il mio risparmio è una torta, sono pensionata insieme a mio marito, divido la torta in tante fette, la più grande cerco di preservarla per il futuro dei miei due figli che avranno una magrissima pensione, quindi già nella piena consapevolezza dei problemi del futuro, e poche possibilità di crearsi una pensione aggiuntiva. Buona giornata a tutti. Buona giornata alla nostra ascoltatrice, buona giornata a Marco che ci chiama da Como. All'8 00 24 00 24, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, ci dica. Allora, un consiglio da lei e dagli esperti. Io sto vendendo dei beni di un'eredità e dovrei entrare in un capitale variabile tra 600 e 800 mila euro. Abito vicinissimo a Como, a poco dal confine, per cui posso espatriare tranquillamente in qualsiasi posto del mondo. Mi dica lei come investire questi capitali. Allora, è una bella responsabilità. Io direi, dottor Galli, se lei è d'accordo, più che indicargli se suddividere questo capitale del quale entrerà in possesso entro breve in azioni, obbligazioni, eccetera, facciamo un quadro su quelle che sono le domande che deve farsi invece una persona che ha a disposizione questo capitale qualora affrontasse un consulente per poi gestirlo al meglio. Intanto io dico che la prima domanda è capire che necessità avrà nei prossimi 5, 10, 15 anni, no? Questo è un tema fondamentale. Certamente, perché la prima reazione che si ha è quella di immaginare di come far rendere il proprio capitale nell'immediato, cioè avere il maggior rendimento immediato. Questo non è un ragionamento che porta ad avere dei buoni risultati. La prima cosa che ci dobbiamo chiedere è: sono una cifra così importante, perché stiamo parlando di una cifra così importante, quando pensiamo ci possa essere utile? Ci serve perché la vogliamo lasciare in eredità dei figli? Quindi vuol dire avere un periodo davanti a sé veramente molto molto lungo, e questa è la condizione ideale per fare investimenti ragionati. Dobbiamo in realtà comprare un immobile da qui ai prossimi 2 o 3 anni? Certo. E quindi in realtà il ritorno su questo capitale sarà più contenuto e a rischi molto molto minori. Vogliamo in realtà tra 10 anni spendere o lasciare parte di questo capitale ai figli, che faranno poi quello che ritengono opportuno? Ecco, queste sono 3 visioni già breve, medio, lungo termine, che hanno degli impatti diversi sull'allocazione: più azionaria, meno azionaria, più obbligazionaria, che tipo di rischio io posso affrontare. Certo. Quindi il primo ragionamento è: quanto rischio e quindi quanto rendimento mi posso attendere? Primo ragionamento. Secondo ragionamento, direi che l'osservazione, quella su vivere a 20 chilometri dal confine svizzero, oggi aiuta pochissimo, non è necessaria. Cioè c'era un mondo dell'Italia degli anni... Lei dice perché che ha fatto perché c'era un mondo, c'era il mondo degli anni 70 in cui il sistema italiano non offriva opportunità di investimento, c'era una tranquillità dall'altra parte del confine che non c'era qui. Oggi sappiamo che questo mondo veramente è finito, nel senso che le stesse banche svizzere non hanno nemmeno l'interesse a fare l'offshore. Oggi si investe in Italia esattamente come si investe a Lugano. La fiscalità è la stessa, perché la Svizzera partecipa agli accordi OCSE sullo scambio di informazioni, quindi anche questo è totalmente finito, ed è finito anche Svizzera, Austria, Lussemburgo. Sono paesi che scambieranno automaticamente le informazioni tra autorità, diciamo, fiscali, a partire da tra poco tempo. Quindi il nostro tema oggi non è porto i capitali al sicuro da qualche parte, ma è come li investo bene. E quali opportunità ho? Allora, di nuovo, su un ammontare così importante, l'unico modo è quello di diversificare bene. Certo. Cioè, perché il vero deciso il livello di rischio, come diversifico al meglio con quel all'incirca con quel livello di rischio che io posso tollerare, che posso affrontare. E qui obiettivamente un prodotto di risparmio gestito, quindi un prodotto che è un prodotto di investimento collettivo, è l'unico che dà veramente un livello di efficienza, ecco, e di diversificazione. Un altro suggerimento che ritengo da poter dare a Marco è quello di non fare tutto in fretta, no? Non appena avrà la disponibilità di questo capitale, prendersi tutto il tempo necessario per fare le scelte corrette, naturalmente, perché non gli corre dietro. Un'indicazione flash. Uno dei problemi è trovarsi un ammontare, 100.000 euro, e decidere che lo si mette in quell'investimento. In realtà chi investe sistematicamente con quelli che si chiamano i PAC, cioè dei programmi di investimento che durano nel tempo, che quindi smussano anche gli andamenti di mercato, hanno dei risultati, ma questo proprio si trova nei numeri delle stesse società di gestione. Si vede che chi, torniamo quindi al concetto di disciplina, che chi affronta l'investimento in una forma programmata ha dei risultati totalmente diversi, e questo oltretutto avviene implicitamente per chi ne ha la disponibilità e può avere dei vantaggi fiscali con i fondi pensione, con le forme pensionistiche integrative, dove mese per mese, diciamo, non dico senza accorgersi perché si sa bene quello che si mette da parte, ma questo investimento avviene, quindi nel momento in cui c'è la correzione di mercato, a volte anche la correzione importante del 10%, non ci si blocca, anzi quelle sono occasioni incredibilmente di acquistare a sconto sul mercato, per dirla in maniera brutale. E l'unico modo per farlo è non trovarsi ogni volta con l'ansia della decisione, ma farlo sistematicamente. Chi lo fa sistematicamente ha dei risultati totalmente diversi. Lo sai, Nicoletta, hai sentito allora la validità del piano di accumulo? Sì, l'ho sentita, ma devo dire che Deborah mi dà delle piccole lezioni private al pomeriggio, vero? Ed è molto soddisfatta di me. Sì, certo, vero? Certo. No, piano, perché piano, lei dice, piano, non so, piano. Non so, invece sa e fa, e quindi sono molto, molto soddisfatta. La voglio mettere alla prova, no? Perché la voglio sempre così vivace. Io mi faccio prendere, il check-up al giorno. Prendere decisioni in ambito di investimenti è la cosa più difficile, perché poi alla fine della giornata uno deve dire, lo faccio, e deve avere quello spirito, quell'animo che gli consente di farlo. Non è mai troppo presto per prepararsi alla terza età, e non è mai troppo tardi per rimediare ai danni che il tempo può arrecare. Alberto Oliverio. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Professore, a proposito di investimento, ce l'hanno confermato, bisogna prendere delle decisioni, è essenziale usare la testa, quindi il cervello, tenendo conto che però in fatto di soldi, e lei me lo confermerà, il cervello non ama perdere. Questo è un fenomeno che è stato studiato dai ricercatori, è una sorta, si chiama un po' avversione per le perdite, è studiato dai ricercatori del Centro di Neuroscienze Cognitive del CRESA, l'Università di Vita Salute. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di andare sul sito del professor Matteo Motterlini del San Raffaele, che ha partecipato alla ricerca, matteomotterlini.it. Professor Barbanti, quindi il cervello va un po' con i piedi di piombo. Il cervello va in realtà con i piedi di piombo, noi non sempre, perché noi possiamo fare verso l'attività del sistema nervoso, possiamo agire in tempi brevissimi, intermedi o lunghi. Pensiamo alle cose voluttuarie, alcol e caffè, una azione rapidissima e quasi una scommessa immediata con effetti opposti sul sistema nervoso. Pensiamo invece agli effetti a lungo termine, purtroppo negativi, di esposizione ai pesticidi, che ormai sono riconosciuti come causa di tante malattie neurodegenerative. E poi possiamo anche puntare sui derivati, io non so cosa siano esattamente in economia. Guardi, professor Barbanti, non l'abbiamo capito neanche noi in questi anni, sappiamo ecco, solo che hanno fatto dei grand'anni. Eccoci. No, già facevano paura le derivate matematica. Vero? I derivati ancora di più. Il puntare sui derivati nel sistema nervoso vuol dire io ho una familiarità, ho dei fattori di rischio e me ne frego, non faccio assolutamente nulla. In realtà, e l'ospite mi ha tolto la parola di bocca, ma sono parole pertinenti per lui, il sistema nervoso vorrebbe esattamente l'esecuzione di un piano di accumulo, e cioè uno stile di vita, quindi non iniettare improvvisamente una dieta formidabile oppure una vitamina miracolosa, ma accumulare in uno stile di vita salutare, e salutare non vuol dire sempre ligio, Questo è molto interessante anche per i nostri ascoltatori. Si dimostra che un invecchiamento cerebrale buono è quando il soggetto mette vitalità nella vita, non solo intellettualità. Quindi non ricordiamo solamente gozzoviglie di Trimalcione o cose del genere, ma senza dubbio il divertimento, certo. e per certi versi la sregolatezza, dove questa non cada negli eccessi ovviamente tossici, pensiamo il fumo, pensiamo l'alcol, è un elemento di salute neurologica. Insomma, paragonandolo ancora in questo parallelismo cervello-economia, il cervello può e dovrebbe seguire l'idea del sogno americano, cioè si parte da un bagaglio uguale per tutti, ma ricordiamoci che il sistema nervoso umano, a differenza di quello degli altri animali, si sviluppa integralmente al di fuori della vita fetale, quindi è importantissimo l'approccio che questo viscerà con l'ambiente. Una fortunata e continuativa e utile dinamica con un ambiente fatto di alimenti, di divertimenti, di stimoli, è in grado di farci accumulare e di trovare un enorme capitale in vecchiaia. Però, professor Barbanti, se quando facciamo un investimento dobbiamo aver ben chiaro quello che possiamo investire, anche per investire sul nostro cervello dobbiamo avere ben chiaro il nostro capitale di partenza. Allora, noi abbiamo raccolto alcuni indizi in una scheda, ascoltatela e se vi riconoscete chiamateci 800 24 00 24 perché il professor Barbanti ci dirà in quale orizzonte temporale sarà meglio cimentarci, proprio come farà l'ospite di Denari, che ci aiuterà a scegliere gli investimenti nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Andiamo. Essere e benessere. Dormi? Ma quanto dormi e come dormi? Il mal di testa è una compagnia abituale o occasionale? La tua proverbiale memoria di ferro si sta arrugginendo? Il tuo umore segue l'andamento delle borse? Va su e giù. Sei teso come una corda di violino che potrebbe saltare da un momento all'altro. Vi rinnovo l'invito a chiamarci al nostro numero verde se vi riconoscete in queste semplici domande. Il professor Barbanti ci darà una mano per capire quali sono gli investimenti per far fruttare il nostro capitale, che è la materia grigia, o meglio i nostri neuroni, che vogliamo efficienti e vivaci. Certo, e a proposito di capitale, anche per il risparmio c'è un capitale di partenza con cui fare i conti e partiremo da questo di nuovo tra qualche istante con Fabio Galli dopo i mercati. Cuore e denari. E su sei sempre il più, e giù sei un uomo in più. E su sei sempre tu, e giù non ci sei più. E noi riprendiamo a parlare di investimenti. Oggi a Cuore Denari vi diamo consigli utili per far fruttare i vostri soldi nel breve, medio e lungo periodo, e la stessa logica la vogliamo utilizzare per un investimento fondamentale per la nostra vita, la salute del nostro cervello, anche perché, Deborah, se i soldi non tutti ce li hanno, il cervello più o meno funzionante, più o meno brillante, ce l'abbiamo tutti, esatto, in dotazione. E poi va detto che ci vuole cervello per fare i soldi, ma ci vuole anche cervello per poterseli godere. Ripensavo l'ascoltatore di Como prima che a breve entrerà in possesso di una discreta somma, io gli avrei anche detto un viaggetto, Marco, un paio di mesi alle Maldive, no? E quindi questo tenetelo a mente, bisogna anche un pochino, se si può, godersela, credo, la vita, e si fa. Ce l'ha detto questo, anche il professor Barbanti, certamente, che bisogna godersi un po' la vita, così il cervello questo sta cervello su, che recepisce solo le informazioni più belle, no? Strano. Vi abbiamo chiesto di raccontarci i vostri risparmi paragonandoli ad un dolce e ne sono già arrivati molti. Sì, sì, sì, allora, sì. Un ascoltatore ci scrive che il dolce se l'è già mangiato, purtroppo. Mm-hmm. Un altro ascoltatore lo paragona al pan dei morti. Mm-hmm. Pensavo, Deborah, al mio, che potrebbe essere una crostatina individuale, oppure una mini saccherina, sai quelle che si comprano perché sono piccole, così le mangi senza tanti sensi di colpa. Io invece adesso non riesco subito a fare così, ad identificare i miei con un'immagine legata al panorama dolciario, ma ci rifletto entro le 12:30, magari così do anche questa notizia agli ascoltatori. È una bella idea la vostra, perché comunque sì, ognuno c'ha il dolce preferito, quindi dimensioni, forma, più panna, più crema, più guarda, secco. io sono una cioccolata di dipendente. Come vedete, come... è esattamente così anche per gli investimenti. Ci sono investimenti che possono andare bene in maniera molto diversa a diverse persone. Certo. 800 24 00 24, allora continuate a condividere con noi se volete anche la vostra ricetta su come avete voi scelto di investire il vostro risparmio, piccolo o grande che sia, perché anche 10 euro al mese naturalmente per persone che magari non hanno un reddito particolarmente rilevante sono da tenere nella dovuta considerazione, nel dovuto rispetto. Che cosa facciamo? Sentiamo ancora il professor Barbanti, Nicoletta? Vogliamo sentire sicuramente il professor Barbanti, perché ci state dando una serie di indicazioni da tenere a mente. E professor Barbanti, vado subito sulla memoria, che è un cruccio per molti di noi, la difficoltà a memorizzare, l'abbiamo messa anche nella nostra scheda come uno degli indicatori per misurare un po' il capitale che abbiamo a disposizione. Ma professor Barbanti, possiamo stare abbastanza sereni, perché mal comune mezzo gaudio, la difficoltà a memorizzare, a ricordarsi le cose, gli appuntamenti dove abbiamo messo le chiavi di casa, non è un segnale pericoloso, vero? Stiamo tranquilli? No, non è un segnale pericoloso, più delle volte però è un invito ad uscire dall'azionario. Come si vede, la mia ignoranza in termini economici è suburrale, ma insomma usciamo dalla volatilità dell'azionario. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abitualmente dovremmo avere l'attenzione focalizzata su ciò che stiamo facendo, e parlo in termini neurologici ovviamente, e avere su ciò che è esterno al nostro oggetto di riflessione semplicemente una condizione di vigilanza. In realtà né più né meno dei grandi operatori di borsa, di Wall Street o di Piazza Affari, stiamo con la coda dell'occhio a vedere tutto quello che succede, cioè noi dovremmo in realtà passare dalla condizione di attesa, che è quella con cui involontariamente scrutiamo ciò che ci sta a fianco, ad una condizione semplicemente di vigilanza, cioè controllare se c'è un crack. Ebbene, noi impercettibilmente nella vita quotidiana siamo portati a sorvegliare attentamente non solo il nostro oggetto immediato di attenzione, ma anche il circondario, magari rimuginando nel pensiero sui figli, sulla suocera o su altro. Questo non fa altro che levarci un'enorme quantità di energia. Non memorizzeremo mai nulla, o perlomeno ci sarà un'enorme discrepanza tra ciò che vorremmo ricordare e ciò che in realtà ricordiamo. Cosa fare? Facciamo come un atleta sovrallenato, stacchiamo, il relax può essere un relax di tipo parziale, ovviamente, diceva prima Deborah la vacanza alle Maldive, ben venga se uno riesce a farla, ma anche in una campagna nel proprio paese. E poi sì, possiamo andare anche qua a Como a farci un giretto, no? Più vicino noi, non so, non volevo, il professor Barbanti, ovviamente essere irrispettosa con chi non si può permettere quella tipologia di come vacanze, noi d'altronde. Marco, però diciamo che con quella cifretta poteva, quindi fare stacchiamo qualcosa. Un po' la spina come fanno gli atleti, che hanno un giorno di riposo anche negli allenamenti per rinforzare quello che hanno appreso. Ma non basta quello, poi il calciatore deve riprendere la tecnica, e cioè cambiare tecnica d'allenamento, perché se poi noi non tesorizziamo il recuperato così deficit di energia, lo sprechiamo ancora. Vi dico semplicemente a chi ci ascolta, a quante cose futili siamo attenti, e siamo portati in un tourbillon di eventi che solo in parte dipende da noi. E uso un paragone molto frequente, ma che secondo me rende bene, noi dovremmo avere verso l'ambiente, ripeto, non verso quello che stiamo in quel momento facendo, l'attenzione di un vecchio usciere di un polveroso ministero degli anni 50, non l'occhio di una guardia giurata di fronte alla banca. Questo ci logora e ci mangia memoria, apparentemente, ovviamente. Abbiamo tanti ascoltatori che stanno chiamando l'800 24 00 24, ma mi divertono molto le descrizioni che i nostri ascoltatori ci stanno inviando via sms per raccontare i loro risparmi. Un cabaret di mignon per due, ci scrive Sandra da Milano. Vince Francesco per me, perché il suo è il dolce della nonna, perché senza di lei siamo... Oppure ci scrive un altro ascoltatore: i miei sono una ciambella, il risparmio con il buco. 800 24 00 24 è anche il numero che ha fatto per noi. Ha fatto Sandro da Roma, forse c'era lui in attesa da un pochino. E poi abbiamo Moreno dalla provincia di Fermo, non vogliamo sentirlo. Guarda un po'. Ecco. Certo. Sandro, buongiorno. Sandro, buongiorno. Stavamo parlando di lei nella pausa, perché la sua domanda ci interessa molto. Ho posso intervenire? Certo, certo. Buongiorno, siete molto simpatiche tutti e due. Vorrei fare una precisazione. Sì. Era meglio il vecchio palinsesto che durava un'ora a testa. Vabbè, allora o ci dice che siamo simpatiche o ci dice che le piacevamo prima. Com'è questa storia, Sandro? No, come, come trasmissione parlo. Ci dia fiducia, ci dia fiducia che entro l'anno, entro la fine dell'anno le piaceremo anche così. Sì, e cos'è? Senta, allora volevo parlare. Io sono un pensionato, ho investito il mio piccolo risparmio in una pensione integrativa per mia figlia, dato che lavora all'estero, sì, in Russia. Lì non hanno pensione, non mettono contributi. Mm-hmm. Ho versato circa 200 euro al mese a una pensione integrativa. Mm-hmm. Ti sembra poco o abbastanza? Ah, allora intanto quanti anni ha sua figlia? Sandro? Sì? Quanti anni ha sua figlia? Mia figlia ha cominciato quell'altro anno, 32 anni. 32 anni, grazie mille Sandro. Beh, allora, intanto ha dato alla figlia una grandissima opportunità che è quella di lavorare all'estero. Ne parlavamo anche, ti ricordi Nicoletta, in una settimana nei giorni scorsi, parlavamo, sì, proprio delle nuove opportunità professionali per questi ragazzi che adesso invece in Italia brancolano letteralmente nel buio. Un altro papà ci ha raccontato che sua figlia è in Cina, chiaramente un'enorme opportunità professionale, ma per quello che riguarda il futuro previdenziale, come dire, un vicolo cieco, se vogliamo dire, perché effettivamente lavorare in certe economie, in certi paesi non ci dà una chiara prospettiva previdenziale. Il papà fa per la figlia in questo caso? Sicuramente fa una buona scelta. Secondo lei intanto la cifra mensile è adeguata, Fabio Galli, visto che anche di previdenza complementare sarà uno dei temi centrali del prossimo Salone del Risparmio? Beh, intanto non esiste l'idea di adeguato, nel senso, mm-hmm, che bisogna vedere che cosa noi possiamo permetterci. 200 euro risparmiati ogni mese sono comunque, certo, significativi, anche perché questo papà compie un atto sicuramente molto generoso, nel senso che si fa carico anche di un risparmio che forse sua figlia oggi, che sta in una fase iniziale della sua carriera, non può permettersi autonomamente. Io gli consiglierei di affiancare a questo atto di grande generosità anche di coinvolgere sua figlia nella scelta dell'investimento, cioè far sentire sua figlia, visto che lei ha questa consapevolezza e sta facendo questo per sua figlia, di coinvolgerla in questa decisione su come investire questi soldi, come scegliere il fondo, mm-hmm, pensione integrativo, in maniera tale che sua figlia nel tempo, poi quando diventerà più autonoma, prosegua. Perché 200 euro sembrano pochi, ma 200 euro per una vita in realtà ci consentono di arrivare poi all'età della pensione, che probabilmente per sua figlia sarà intorno ai 70 anni, quindi con altri delle 40 cifre anni che di... non sono affatto marginali. Mm-hmm. E la scoperta che si fa poi quando si arriva al momento di poter utilizzare quel denaro messo da parte è che con uno sforzo relativamente contenuto si trova qualcosa di significativo, perché dai 30 ai 70 anni ci sono 40 anni di accumulo, e se sono accumulati in maniera intelligente sono assolutamente significativi. Quindi la cifra, di tutto rispetto, se naturalmente questa è quella che si può... Se si può fare di più, certo, è sempre... Allora, risparmiare non è mai un errore. No, infatti, e poi la condivisione della decisione con sua figlia è un altro suggerimento. Sì, perché è bene che a un certo punto sono sicuro che sua figlia, anche perché se sta avendo esperienze professionali importanti all'estero, comunque sta sviluppando un suo percorso autonomo, arriverà un momento in cui... E quindi il regalo che può fare a sua figlia è proprio quello di lasciargli non soltanto la cifra accumulata, ma anche la consapevolezza dell'importanza di fare questo, quindi accompagnarla anche in questa decisione. Lei ha avuto l'intelligenza di fare un regalo molto migliore di quello che fanno altri genitori verso, mm-hmm, i figli, a cui magari comprano la macchina, e invece lei gli fa un regalo più strutturato. Secondo me gli può proprio regalare anche questa idea di come comportarsi. Certo. Certo che i nostri genitori giustamente ancora non si rassegnano al fatto che i figli in prospettiva la pensione pubblica non l'avranno, cioè è comunque una consapevolezza totalmente nuova che dobbiamo avere rispetto al passato. Penso dire che la pensione pubblica non ci sarà, però non è la pensione che hanno oggi i nostri genitori, ecco, i nostri nonni. Sarà una pensione molto diversa, e quindi per questo si chiama pensione integrativa. È una cosa importante integrarla, perché trovarsi a 70 anni con una pensione da 1000 euro oppure 1000 euro di pensione pubblica e in realtà 1000 euro di pensione integrativa, mm-hmm, è tutta un'altra, certo, vita, insomma. Adesso noi dobbiamo andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade. Voi continuate a scriverci come vedete i vostri risparmi. Un ascoltatore ci scrive: la mia è una torta, ma al posto della farina c'è il cemento. Alberto ci scrive: i miei risparmi sono come uno solo bibanese intinto nella Nutella, basterebbe un morso solo e alè. E ancora un Andrea ci scrive: i miei sono pizza, perché se no, se sono dolci, mia moglie se li pappa subito. Ecco. 800 24 00 24. Continueremo anche ad analizzare la salute del nostro cervello, come sta, riprendendo un po' la nostra scheda, e il professor Barbanti ci farà investire nel medio e nel lungo periodo. E cosa vorrà dire? Sicuramente in stile di vita, insomma, è quello che ci assicura di arrivare anziani, aggiungere, come si dice, anni alla vita, ma soprattutto vita a quegli anni. Cuore e denari. Ombre a rincorrersi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza. Che strani giorni con un po' di pazienza, professor Barbanti, si ottiene tutto anche per la salute del nostro cervello. Dobbiamo investire sapendo che i risultati non li otteniamo subito. È il caso ad esempio dell'attività fisica, che sappiamo ha un ruolo protettivo per il nostro cervello, perché insomma l'ossigeno in senso lato. Il cervello infatti col passare del tempo si restringe, si accartoccia un po', ecco, e questa perdita di volume ha un impatto su memoria, comprensione, capacità linguistiche. Ma ecco, non dobbiamo preoccuparci, insomma, se gli anni rimpiccioliscono un po' il nostro cervello, l'attività fisica compensa e rende il nostro cervello un pochino, no, contrasta un po' questo effetto degli anni. Professor Barbanti, è così? Sì, esattamente così. L'attività fisica lo fa in tre maniere sostanzialmente. La prima maniera è quella magari più nota a tutti, l'incremento del tono della serotonina, il neuromediatore implicato nell'analgesia, nella tranquillità, nel ritmo sonno-veglia ideale, nel buon umore. Però, per esempio, gli studi più recenti hanno dimostrato come l'attività fisica faccia sgranchire non solo le nostre ossa, ma anche le parti del piacere più profondo e anche del piacere più bizzarro. Guarda, il piacere rischioso è un'area dal nome impronunciabile, visto che è impronunciabile la pronuncio, che è il segmento del mesencefalo, e si libera dopamina e fattore di crescita nervoso. Io per qualche tempo ho provato a correre e ogni volta che smettevo di correre dicevo no, è l'ultima volta che lo faccio, ma poi ci tornavo. È esattamente quello che succede, cioè il net growth factor, che tra l'altro ha mille funzioni, inducendo anche una certa vena romantica nel soggetto, questo è dimostrato da tanti comportamentali. Carino, quindi chi corre è anche, diventa anche un po' romantico? La vena romantica, almeno nel regno animale, correla con fattori di crescita nervosa come il nerve growth factor. Dicevamo, queste sostanze che si liberano danno, quindi aggiungono vita ai nostri anni, ma gli anni alla nostra vita, l'attività fisica la aggiunge per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, e perché si potrà dire, ma insomma questo è un neurologo, si mette a sconfinare nel territorio di altri. No, no. La migliore prevenzione dell'invecchiamento cerebrale è la prevenzione delle malattie cardiovascolari, perché quando si diventa vecchi e ci si indementisce, si accumula una sorta di colla fuori dai vasi che si chiama amiloide. Ebbene, se noi teniamo i vasi ben protetti e l'attività fisica è lo strumento principale, quello che si ottiene è un ridotto rischio di accumulo di amiloide. E sappiamo per esempio che l'ipertensione arteriosa trattata tra i 40 e i 60 anni e l'attività fisica è uno strumento per abbassarla, riduce drammaticamente il rischio di demenza. Così come la prevenzione del diabete, che raddoppia il rischio di demenza, viene contrastato dall'attività fisica. Quindi direi, muoviamoci e poi chiediamoci il perché. Stiamo sicuri che sono tre investimenti in titoli di Stato sicuramente solidi. Vedi, professor Barbanti, lei ha toccato un tasto molto importante di cui vorrei parlare con lei anche nella seconda parte della trasmissione, ed è questa. Ci sono delle persone che hanno casi in famiglia di malattie neurodegenerative e sono molto attente, quindi, e un po' anche intimorite a quella che sarà la loro salute con il tempo. Temono che questa sorta di familiarità possa in qualche modo portarli inevitabilmente ad avere queste malattie. Noi abbiamo sottolineato tante volte il ruolo della prevenzione. Potremmo dare anche delle indicazioni alle persone all'ascolto che ci scrivono, ci chiamano, riceviamo ogni giorno tante mail di ascoltatori che mi dicono: la mamma ha il Parkinson, che cosa devo fare? Voi parlate di prevenzione. O la zia con l'Alzheimer, dalla parte di mio nonno, di mio papà hanno. Di questo parleremo anche naturalmente nel corso della trasmissione, per dare delle indicazioni di stile di vita a chi ha un parente affetto appunto da una malattia neurodegenerativa. Anche questa è una prevenzione a lungo termine. 800 24 00 24. Temo che sia il momento di dare la parola a Moreno, non perché temo, ma perché aspetta da un po'. Buongiorno Moreno. Moreno, buongiorno. Buongiorno, lo sa che lei si chiama grazie come, per l'opportunità. Lo sa che lei si chiama come mio cognato? Le interessa questa notizia fondamentale per la sua esistenza? Buono sapersi, è una notizia. Grazie Moreno, ci dica tutto. Niente, io volevo fare una riflessione con voi, perché sì, mi stavo accingendo a un punto, per la prima volta nella mia vita, ho 42 anni, a preparare appunto questa torta, questa differenziazione, no? del risparmio, che sì, finora mi sono rivolto alla banca e mi ha proposto dei certificati di deposito a scadenza di un anno o due anni, con degli investimenti, con dei rendimenti di circa, diciamo, ad ora al 3%, con un costo del 20%, poi una tassazione del 20%, come sappiamo. Okay. Però semplice, soldi si tengono vincolati per uno o due anni e poi dopo c'è la detrazione del 20% sul rendimento. Però lei ha detto che sta facendo la torta, esatto, le altre fette come sono fatte? Sì, sto preparando la torta in questo momento, quindi una parte di questi certificati che li reputo, quindi la parte sicura, perché è garantita dal Fondo Internazionale, banche, eccetera. Sto valutando anche un'opportunità di un bilanciato con un PAC, quindi un piano d'accumulo con versamenti mensili, e anche un'assicurazione, ma non un fondo pensione, un'assicurazione che investe in obbligazioni. La mia riflessione era questa. Allora, a conti fatti, io infine riesco a risparmiare più o meno la stessa cosa di quello che stavo facendo ad ora con i certificati di deposito. Perché? Andiamo nel piano d'accumulo. Bisogna pagare circa il 3 o 4% in base al piano di accumulo dei soldi che si investono. Vabbè, in commissioni. Più c'è una tassazione ulteriore, più ci sono i bolli. Bisogna aprire poi un dossier titoli. Per la parte dell'assicurazione. Dell'assicurazione, anche qui metto un valore, stavo pensando una cifra, diciamo, di 20.000 euro. Moreno, sintetizzi perché stiamo chiudendo. Quindi lei dice, insomma, ci sono molti costi nei prodotti che ha scelto e forse non bilanciano adeguatamente, insomma, il rendimento che le è stato promesso. A mano. Risulta che il guadagno è più o meno lo stesso che non fare un monoprodotto. Quindi chiedo, perché la differenziazione, dov'è il guadagno? È una, come dire, domanda che pertinente Galli si fanno molto spesso tutti coloro che effettivamente sulla scia di questa diversificazione che viene largamente suggerita da tutti i consulenti, appunto, però dicono: perché polverizzare in questo modo il nostro risparmio, visto che poi anche il peso delle commissioni rischia di vanificare, no? Ma no, però non è così. Il fondo bilanciato di cui l'ascoltatore parlava, i prodotti bilanciati effettivamente davvero, quindi con una componente di circa la metà azionaria e metà obbligazionaria, ma non a breve termine come il caso di un certificato di deposito, ma in realtà negli ultimi anni hanno reso ben più del 3%. Cioè, non so quale sia la percezione, ma un investimento bilanciato, diciamo, attraverso la crisi ha reso molto più del 3%. Chi ha avuto anche la presenza di spirito di fare questi investimenti nel momento in cui sembrava che il mondo crollasse nel 2009, oggi ha avuto dei rendimenti sia sul lato obbligazionario che azionario dell'ordine del 50-60% in tre anni. Quindi queste sono condizioni particolarmente forti, perché sono state condizioni di rimbalzo sulla... Ci torniamo fra qualche istante, no, perché la situazione la è un po' complessa. La valutazione sulla diversificazione va fatta con attenzione. Non è vero che un prodotto bilanciato nel medio termine rende compro un certificato di deposito. Cuore e denari. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Troverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Eccoci tornati, stiamo parlando di investimenti, un po' cantando anche questa bella canzone nel breve, medio e lungo periodo, perché salute e risparmio vanno a braccetto, è la filosofia di Cuore Denari, che quest'anno va di moda anche al Salone del Risparmio. Guarda un po' che combinazione. Era gongola un po' Fabio Galli, anche contento, insomma, l'ha fatto per noi, e noi saremo tra l'altro in diretta dagli studi della Bocconi, che verranno allestiti appositamente per noi per tutte e tre le giornate a fine marzo. Siamo arrivati a parlare di lungo periodo, e se c'è qualcosa che ci può aiutare a campare 100 anni è certamente la prevenzione. Sì, aggiungere anni alla vita, ma anche vita a quegli anni. In linea con noi abbiamo il professor Barbanti, pronto a rispondere a tutte le domande dei nostri ascoltatori che ci stanno chiamando e scrivendo per chiedere consigli su come mantenere efficiente a lungo questo capitale straordinario che è rappresentato dal nostro cervello. Professore, il desiderio di tutti di vivere a lungo, ma nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali. A questo proposito c'è una prevenzione che molti di noi vorrebbero conoscere e praticare, l'abbiamo accennato prima del GR. Penso a chi per storia familiare teme di essere predisposto a una malattia neurodegenerativa. In questi casi si può fare qualcosa, si può fare di più? Cosa si deve evitare di fare? Beh, allora incominciamo a evitare di preoccuparci in maniera inopinata. Le malattie neurodegenerative sono molto frequenti, pensiamo all'Alzheimer, ci sono 25 milioni di persone con Alzheimer nel mondo, nel 2050 saranno 100 milioni. Oggi nell'Europa occidentale ha l'Alzheimer il 5,6% della popolazione complessiva, il 14% sopra i 60 anni, il 45% sopra gli 80 anni. Cosa vogliono dire questi numeri? Vogliono dire stare attenti nel considerare familiare un disturbo che è semplicemente molto frequente, e quindi avere in famiglia soggetti che abbiano sviluppato malattie degenerative, specialmente se in tarda età, non vuol dire eredità mendeliana, per capirsi, il colore degli occhi, l'anemia mediterranea e cose del genere. Vuol dire semplicemente un fattore teorico di rischio, ma che come tutti i fattori di rischio isolato non vuol dire niente. Che cosa possiamo fare noi? Intanto possiamo fare qualcosa se lo abbiamo fatto in gioventù, la famosa riserva cognitiva, e questo dipende da dalla nostra infanzia. Dieta mediterranea, esercizio fisico e attività intellettiva. Questo è, diciamo, il bagaglio che noi ci portiamo appresso fisiologicamente. E poi quello che possiamo fare dopo i 40 anni è evitare di farci del male, e prevenire le malattie neurodegenerative vuol dire evitare di farci del male con esposizioni tossiche. Penso per esempio nell'ambito del Parkinson, che fu addirittura descritto in una forma di epidemie negli studenti dell'Università di Berkeley negli anni 70, che avevano la eroina che utilizzavano tagliata con l'MPTP, una sostanza molto simile ai pesticidi. Ovviamente essere esposti a pesticidi non è un'evidenza frequente, ma ben venga tutta la neuroecologia che sensibilizza contro questo tipo di rischi. Dicevamo dall'altro canto invece curare bene il nostro circolo, soprattutto prendiamo le pastiglie previste dal medico tra i 40 e i 60 anni, non curiamo la pressione quando ne abbiamo 80, in quel caso il danno varrebbe la pena averla un po' più alta, paradossalmente. Quindi il prevenire le malattie circolatorie è un elemento di grande importanza. Pensate addirittura che ci sono delle teorie che vorrebbero considerare la malattia di Alzheimer, quindi la malattia più frequente nei soggetti ultraanziani, come il diabete di tipo terzo, e cioè una forma per la quale il neurone non riesce a utilizzare il glucosio, il suo combustibile naturale. Quindi una buona educazione da piccoli, e non alludiamo alla cultura, ma anche alla cultura alimentare e sportiva, e da grandi evitare di metterci nei guai, ma noi mediterranei siamo anche ben predisposti, con un tasso di obesità che, se anche in crescita, è comunque più basso, e un'alimentazione che in genere è meno dissennata di quella di oltreoceano. Abbiamo in linea con noi Ferdinando, che ci chiama da Roma, 800240024, che sicuramente vuole, come noi, salvare il suo capitale, la sua materia grigia, i suoi neuroni. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, io vorrei chiedere una cosa soltanto, c'è un ritorno, però parlo lo stesso. Sì. Allora, io vado, ho 71 anni, vado a ginnastica 3 volte alla settimana. Bravo. Dove faccio 6 chilometri di corsa, 15 di tapirulà, poi faccio la bicicletta e poi faccio tutti i pesi. Guardi, mi sta stracciando Ferdinando Debora, vero? 25 kg massimo di peso, gambe, braccia e tutto. Va bene, però non dormo di notte. È un po' troppa adrenalina. Sono sempre come un grillo. Se non prendo il sonnifero, non dormo. Professor Barbanti, tutta questa attività fisica fa sicuramente bene, ma Ferdinando, nonostante si stanchi fisicamente, non riesce ad abbandonarsi tra le braccia di Morfeo. E noi abbiamo messo l'insonnia tra i fattori che possono in qualche modo un po' disturbare il nostro capitale. Beh, intanto l'attività fisica, specie di quel tipo, allontaniamola dalle ore serali, e questo è un primo requisito. Secondo aspetto, pensiamo al caffè. Molti dicono, vabbè, io prendo un paio di caffè al giorno. Ricordiamoci che l'emivita del caffè è tra le 3 e le 5 ore nel giovane. Nel soggetto meno giovane, anche se Ferdinando è quasi un atleta olimpico per via della sua grande fisicità. Mi ha fatto un po' di invidia, anche certo. A lei, professore. L'ha sentita un po'. Però ecco, l'emivita della caffeina nei soggetti oltre una certa età incomincia ad arrivare intorno alle 7, talora 10 ore. Ecco, quindi, perché esempio, con gli anni il caffè non ci fa dormire. Quindi queste piccole cose possono influenzare. Poi ci sono molti altri aspetti, e io su questi punto sempre molto. Luce negli occhi prima di andare a dormire, no, questo vuol dire televisione in camera, tablet, magari Ferdinando non lo utilizzerà, o cellulari, questo perché c'è un fascio che si chiama fascio retino-ipotalamico, fatto apposta per tenere sveglio il nucleo sovraottico quando abbiamo la luce puntata, viceversa per farci dormire quando invece c'è il buio. E poi ricordiamoci che c'è anche l'insonnia paradossa. Cosa vuol dire? Il soggetto che in realtà dorme discretamente, ma vorrebbe dormire sempre meglio. È un pochino come quello che quando prende una tamponatina nella macchina la vorrebbe nuova. La mia non è una battuta. Molti sono insoddisfatti di come dormono, ma in realtà hanno una qualità della vita normale. Una cosa per Ferdinando: noi siamo insonni se dormendo male stiamo male di giorno. Se abbiamo l'idea di dormire poco bene, ma di giorno stiamo bene, insonni noi non lo siamo. Interessante questa conclusione del professor Barbanti. E ci saranno anche persone che non sono tanto contente dei loro investimenti, di dove hanno messo i loro risparmi, e continuano, sarà per questo che perdono sonno, a scriverci al 349-238-6666. Mi sono persa la più bella, un'ascoltatrice ci ha scritto, adesso me la ricerco, perché la torta sbrisolona, no, volevi? La torta sbrisolona mi è piaciuta, ma c'era una cosa, adesso tu vuoi raccontarmi, allora che intanto io la vado cerco. Avanti con Fabio Galli. Salva Danaio. Vengono giorni che scappano via, restano parte di noi, scrivono un segno su pagine poco leggibili. Ecco gli amori che passano, lasciano solide scie, restano porte socchiuse che mostrano inutili malinconie. Quello che noi domandiamo per vivere qui dipende da scelte di tempo. Una raffinatissima canzone di Enrico Ruggeri. Naturalmente non ridere sotto i baffi, perché ti vedo. No, io perché... i baffi non ce li ho, scusami. Vabbè, è un'immagine, un po' come gli investimenti associati alla torta. Noi qua giochiamo con le immagini, ma insomma la conclusione di questo brano, di questa canzone, è dipende da scelte di tempo, Fabio Galli, perché anche per l'investimento scegliere il cosiddetto timing è naturalmente fondamentale. Allora, per approfondire questo discorso, le faccio sentire il dilemma di Enzo da Pisa di questo momento, e poi affrontiamo il tema di come e quando soprattutto fare le nostre scelte. Enzo da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Allora, intanto volevo farvi i complimenti, però ahimè rimpiango il buon vecchio Salvadanaio. Ma stamattina vi siete messi tutti d'accordo, Enzo? Su questa... No, mi dispiace, ma non c'è paragone. Abbiate pazienza. Va bene, comunque vede che ha telefonato lo stesso. E riuscivamo a sviscerare bene tutti i problemi. Sì, ma se parla un po' veloce riesce anche questa volta, vada. Dai, niente, il problema, la domanda è questa: riusciamo, cioè, in questo periodo dove tutto è ai massimi, lo spread è ai minimo, dove andiamo ad investire per noi piccoli risparmiatori con qualche decina di migliaia di euro? E poi ultima domanda, abbiamo qualche possibilità noi fan di Salvadanaio di riavere la trasmissione? Ci pensiamo al nuovo palinsesto. Enzo, sa che i dati d'ascolto di questo programma vanno molto bene, per cui abbiamo raddoppiato gli ascolti. Purtroppo per chi è scontento, quindi... in realtà i risultati sono controcorrente. Comunque grazie per la sua domanda, che è pertinente, Galli, perché adesso effettivamente questo è un po' un interrogativo che si pongono in molti. La borsa in Europa qualche lissino sui massimi, Wall Street sui record, hanno arrancato un po' negli ultimi mesi invece le piazze asiatiche. Che succede, soprattutto che fare in un momento come questo? È una domanda molto importante. La sensazione è quella sempre di poter capire quando c'è il massimo, quando c'è il minimo. Questa è una... fa parte un po' di quelle illusioni, cioè l'idea che si possa in qualche modo capire, che qualcuno lo capisca. Non è così. Primo, non lo sa nessuno. Si fanno dei ragionamenti. Certo, l'ascoltatore ha ragione. Sia la borsa che i mercati obbligazionari hanno fatto molta strada. Ma questo si diceva già di entrambi anche un anno fa e anche due anni fa. La seconda cosa è che chi cerca di ragionare in questi termini, cioè di indovinare le grandi cambiamenti o direzioni macroeconomiche, non riesce. Quindi quello che si fa è avere un ragionamento per cui non ha molta importanza se la borsa quest'anno non lo sa nessuno se scenderà del 10% o se aumenterà ancora del 10%. Non è questo il punto. Il punto è: se io devo avere i soldi, esatto, devo usare il mio risparmio tra un anno per comprare una casa, devo fare un investimento che sia immediatamente liquidabile e che non è sensibile agli andamenti, quindi dovrò prendere delle obbligazioni a breve termine che non hanno nessuna correlazione con, certo, i grandi movimenti di borsa o di tassi di interesse a lungo termine. Se invece io, come è il caso di molti, devo pensare alla mia pensione, francamente se la borsa quest'anno correggerà del 10, del 15% non ha nessuna importanza. L'importante è che io quest'anno, se ho deciso che investo il 50% in borsa, continuo a farlo, lo farò l'anno prossimo e l'anno successivo. Ci saranno anni in cui comprerò su prezzi relativamente bassi, relativamente alti, ma tenete presente che nessuno ha venduto borsa nel 2007 e l'ha comprata nel 2009. Ci sono più che altro persone che compravano nel 2006, hanno resistito, si sono spaventate nel 2009, certo, e hanno fatto dei disastri. Quindi l'idea è quello che chi è uscito veramente bene negli ultimi 10 anni è chi sistematicamente anno dopo anno, come sembra molti dei vostri ascoltatori fanno, cioè nei limiti delle loro possibilità mettono da parte quella cifra, è allocata su un prodotto corretto che quindi diversifica, mai scommettere sul singolo titolo. Perché tenete anche questo un altro insegnamento: esistono singole società che sono fallite, sì, è chiaro, le conosciamo, non sono moltissime ma esistono. Non è mai fallito un intero mercato, quindi se noi investiamo in azioni europee tra 10 anni o siamo tutti morti perché ci ha colpito la meteora dal sistema, sì, oppure è probabile che qualcosa sia andato su e qualcosa sia andato giù. In generale che il mercato, in realtà, perché l'economia, per esempio le aziende in questi anni di crisi stanno accumulando profitti, tant'è vero che la borsa ha guadagnato il 40-50%. Sì, c'è anche la liquidità delle banche centrali, quindi qualche crescita è stata anche un po' drogata, pilotata, lei lo sa. Sì, certamente, però è anche vero che non è che le banche centrali fanno delle cose strane, semplicemente le banche centrali seguono delle politiche perché ormai il sistema è maturo, quindi quello che noi abbiamo fatto nel 29, cioè le banche centrali hanno fatto restrizione monetaria e hanno creato 20 anni di crisi, e non l'hanno fatto per fortuna dal 2007 ad oggi, cioè il sistema va avanti, impara e quindi oggi il sistema è più solido. Bisogna semplicemente avere disciplina. È chiaro che se noi risparmiamo un pezzettino dal nostro reddito, lo facciamo sistematicamente. Chi si trova una cifra per un'eredità, per una cosa, come l'ascoltatore che è intervenuto subito in apertura di puntata, 500-600 mila euro, la tentazione di buttarsi su qualcosa, ecco, più forte. Quindi vedi come siamo fortunati che non abbiamo questa tentazione. Ho trovato Maria Rosa, volevo leggerla. I miei risparmi di vita mi sembrano come un soufflé, sembrano consistenti ma appena si affonda il cucchiaio si smonta. Dedichiamo l'ultima parte della nostra trasmissione alle telefonate dei nostri ascoltatori. 800 24 00 24. Avete ancora tempo per chiamare naturalmente il nostro numero verde. Abbiamo Giorgio da Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, io sono molto conciso, vorrei sapere quanto ci si deve preoccupare di una perdita di memoria da parte di una donna che è in premenopausa o in menopausa. Grazie professor Barbanti, Giorgio è stato preciso. Ma vista l'età direi che sono vere due possibilità, una estremamente remota, che sia una forma presenile di invecchiamento, ma noi questo sarebbe neuroterrorismo, e una invece più probabile, in un momento in cui gli ormoni sessuali femminili, che diventano neurosteroidi, cioè che sono nutrimento del sistema nervoso, stanno variando, c'è un ridotto smalto del soggetto. Ricordiamoci che in epoca perimenopausale sono anche molto frequenti i disturbi dell'umore, che sono dei grandi inquinatori, perché sono il rumore di fondo che non consente di memorizzare. La mia risposta secca è: non mi preoccuperei. Ovviamente ogni caso va visto in maniera sé stante. Andiamo ancora con gli ascoltatori. Andiamo, Deborah? Volentieri. Prendiamo un ascoltatore che invece è Marco da Genova, anche se ci pone un tema che richiederebbe 6 ore di trasmissione. Marco, lei sarà sintetico, vero? Buongiorno, rapido, grazie. Buongiorno. Sì. Parlavo di una diversificazione ovviamente di una piccola crostatina, quindi il mio 30% l'ho diversificato in valuta. Parlo di lira turca, rand sudafricano, dollaro australiano. Il rublo che in questi giorni sulle montagne russe l'abbiamo messo, Marco? No, ho un fiorino ungherese, tutti ovviamente acquistati tramite obbligazioni BEI, quindi sicurissime, tripla A. Sta di fatto che ho riportato una perdita del 30% sia sotto il profilo valutario che anche sotto il profilo del capitale. Marco, insomma, grazie. Le valute oscillano per definizione. Assolutamente, Galli, sono un aspetto, sono una fonte di diversificazione, ma mi sembra che il vostro ascoltatore ha una propensione al rischio molto elevata. 30% molto di elevata, questa crostatina è molto alta. Sicuramente sì. L'elemento valutario, quindi il rischio macroeconomico legato a un certo paese, è uno dei rischi più forti da affrontare. Anche qua, nelle giuste proporzioni, ecco, io non... la lira turca oggi attrae molto perché si è svalutata e perché i titoli, diciamo, i tassi di interesse sono alti, ma una persona che ha un rischio, diciamo, una propensione a rischio anche di buon livello non dovrebbe certo eccedere delle percentuali contenute. Quindi... E consiglio sempre, certo, l'ascoltatore dice io diversifico per quanto attiene al rischio valutario, ma poi, per esempio, ho tutte obbligazioni BEI, che significa un ente sovranazionale, significa non avere diversificazione nel merito di credito, quindi non avere diversificazione sull'emittente. Sono tutti elementi che vanno sempre valutati Se lo ristudi un pochino questo portafoglio, Marco. Sì. Allora, noi dobbiamo salutare. Innanzitutto salutiamo il professor Barbanti, che è lontano, e speriamo di averlo presto qua in studio anche a Milano. Volentieri. Grazie prof. Grazie. Saluti a tutti, a presto. Arrivederci. Grazie anche a Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, che probabilmente rincontreremo fra un mese e mezzo circa al Salone del Risparmio di Milano. Vi aspetto. Certo, noi verremo con grande piacere. Vi ricordo l'iniziativa Cuore Denari e Vitali. Andate sulla pagina dell'iniziativa, leggete due incipit e scrivete. Ricordate che per la parte del cuore, l'incipit del cuore, dovete mettere la parola pelle, invece per la parte dei denari la parola da inserire nel completamento del racconto è vestito. Noi ci sentiamo lunedì. Ah, ecco, già stavo dicendo domani. Buon weekend a tutti.